3, 2, 1. Allora, ripartiamo. Ed è appunto la scena cult che c'è ora in televisione. Non ve la possiamo descrivere perché è diventata ai minori di 18 anni. Ce l'hanno inchiesta in tanti amici. E per noi è stato difficile reperire questo canale perché sono morosi, ci debbono un sacco di soldi. Però noi, per voi, amici di Web Radio Luzzi, specialmente per i maschietti amanti di Federica con la mano amica, è arrivato il momento di lanciare Colpo Grosso Channel. Purtroppo, per i cugini di Manolo, purtroppo vi posso dire che non c'è più la vecchia presentatrice, ma c'è una presentatrice vecchia, però è una che, in quanto diciamo al campo del quale tratteremo questo canale da noi richiestoci, è esperta. Eh sì, per me è stata nominata per meriti sportivi. Ha fatto tanto bene a Cosenza. Ha fatto sul campo ha fatto il bene, mettete cacciate la B e mettete la P di Cosenza. Signore e signori, è arrivato il momento caldo, i bambini a letto, gli scandalizzati a casa, ed è arrivato il momento, ed è arrivato il momento di lanciare la sigla. Vai Mitch con la sigla di Colpo Grosso Channel. Cin cin cin cin, riempimi di baci, cin cin cin cin, sei la più bella di tutti, cin cin cin cin. Oh, che citazione! Ciao, cin cin cin cin cin. Felice, te muove cammino, c'è che ti muove, c'è. Ah, è un attimo che stai vicino con un cliente! E muoviti, esci su Word, basta, babbo. Cari amici della notte, Word fregate con se teatro, ecco la vostra Felicetta con la trasmissione di Colpo Grosso Channel. Alle 14.30 c'è Santuzzi di Santa Fe con Maria Ambrascata in eiaculazione da Tiffane. Alle 16.30 di 4.30 Gini Carravetta e Maruzza Alcogan in uno spaccato della politica, Don Camillo e l'onorevole Pappone. Alle 18.30 la signora Tenaglia in tacchi a squillo in prima serata, nuovo appuntamento con Mici di Bagnini nell'uomo chiamato Cavallo. E per concludere, il dottor Tenaglia in versione travestito nel film Uccelli ne trovo. Appuntamento alla settimana prossima, sempre se mi vedete a rompiti i coglioni quando ti i miei clienti, io non lo saccio. Felice, vai!